Voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. Di Simone Spezia. Una buona giornata, gentili ascoltatori da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Voto Antonio. Come al solito cerchiamo di raccontarvi come la rete cambia la politica, come voi potete cambiare la politica con la rete. In questa puntata naturalmente non potremo che occuparci di primarie del centro-sinistra, perché come ben sapete domani si vota. Vi ricordo tra l'altro che c'è lo speciale che dedicheremo alle primarie dalle 20 alle 22 di domani. Ci sarò anch'io e quindi ci terremo in contatto con voi anche tramite appunto i social network. Vi ricordo anche i contatti: votantonio@radio24.it è l'email, la nostra pagina Facebook è votaantonioR24, l'account Twitter è sempre votaantonioR24, oppure c'è anche il mio di account Twitter, se volete, è Simone Spezia. Qualche notizia in breve. Prosegue imperterrito il presidente della regione Lombardia nell'autodistruzione della propria immagine via Twitter. Dopo il concorso per l'assegnazione del maglione da lui disegnato, che ha scatenato un'infernale sequenza di ironie, dopo il tweet con la foto di un topo che gli ha attraversato la strada in metropolitana e la tristissima battuta «è meglio un topo o un grillo», arrivano gli incontri ravvicinati. Da Parigi, dove si trovava per un appuntamento dell'Expo, manda una foto di una luce sopra ad un palazzo. E scrive: un UFO a Parigi? Ho visto questa cosa nel cielo, si muoveva, l'ho fotografata, poi è scomparsa. Trattasi, pare, in realtà di un faro laser che viene proiettato dalla Tour Eiffel e che probabilmente si è riflesso su un'antenna. Il Foglio lancia un appello allo staff di Formigoni: toglietegli l'account, il nostro controappello è lasciateglielo, vi preghiamo. Oh, a proposito di primarie di Partito Democratico, abbiamo sondato un po' di gente su Twitter e Facebook, è arrivata qualche segnalazione di problemi per la registrazione via web. Ieri in giornata il sito era in palese difficoltà, sembra tutto risolto, ma continuate a raccontare se i problemi ci sono. Una nota, è una nota di servizio se volete, finalmente attivo l'account Twitter del governo, è Palazzo underscore Chigi, l'underscore la mettiamo più semplice, il trattino basso. La partenza è stata con gli aggiornamenti dal vertice europeo sul budget con tanto di foto. Insomma, alla fine siamo arrivati anche noi italiani. E adesso permetteteci, in questo spazio che di solito dedichiamo alle sciocchezze, di occuparci di una cosa seria, la vicenda del ragazzo di 15 anni di un liceo romano che si è tolto la vita. Nelle informazioni iniziali sembravano condurre ad un caso di cyberbullismo originato dall'omofobia. Si è appreso che in realtà quelle motivazioni non c'erano. Senza voler entrare nelle profondità della mente di un ragazzo di quell'età che fa una scelta di quel genere, qua ci limitiamo a notare che ancora una volta, e purtroppo non sarà l'ultimo, una parte consistente di coloro che frequentano i social network e i blog, con lodevoli eccezioni, va detto, ha preso per buona la prima versione, lanciando campagne e promuovendo iniziative di vario genere, alcune solo online, altre no, seppure promosse via internet. E la raccomandazione alla cautela, specie in casi come questi e delicati come questi, è assolutamente massima. Come si dice, l'uso della rete può essere un'arma a doppio taglio. Ci permettiamo di ricordare anche a alcuni colleghi di grandi giornali che su questa vicenda hanno titolato «Quando la rete uccide», che il cyberbullismo è cosa seria, ma lo ha fatto ben notare Fabio Chiusi sul suo blog: non è la rete che uccide, ma chi la usa. Su questo chiudiamo la prima parte, ci ritroviamo tra un attimo col punto di Stefano Folli. Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci qua, domani è il grande giorno per il centro-sinistra, come vi abbiamo detto ne parleremo anche più avanti naturalmente dal nostro specifico lato, appunto quello dei social network, della rete, dell'impatto che hanno avuto in questa campagna per le primarie del centro-sinistra. E però adesso facciamo anche il punto politico su tutto questo e su come è andata questa settimana, come sempre con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Ecco, ciao, ciao Simone. Allora, siamo direi alla stretta finale. In settimana sulla rete ne abbiamo viste tantissime, anche dei bellissimi post sui blog, devo dire la verità a proposito di endorsement per l'uno o per l'altro candidato. Segnaliamo per esempio quello di Enrico Sola per Renzi, quello anche della staffetta partigiano 85enne Teresa Vergalli, che ha un blog, quindi se lo cercate lo trovate, anche là un endorsement per Renzi, oppure Leonardo Tondelli, ve lo segnaliamo anche questo, per esempio pro Bersani. Molte cose in rete, anche naturalmente molta ironia, finalmente si arriva a queste urne per le primarie. Sì, alla fine guarda, è una cosa positiva che ci sia stata questo lungo braccio di ferro, ma tutto sommato positivo per l'immagine della politica. Si è parlato abbastanza di cose concrete, ci si è divisi come giusto che sia, si è cercato di ristabilire un po' un contatto con l'opinione pubblica, insomma si sono smosse un po' di passioni e questo io penso che sia capace del bene alla politica. Naturalmente è un primissimo passo, bisogna avere il coraggio di andare avanti. Stefano, quello che si stanno chiedendo tutti e che io ti devo chiedere per forza: secondo te Renzi ce la può fare o Bersani vincerà il primo turno? Una previsione te la devo chiedere per forza. No, ma non mi sottraggo. Io penso che Bersani vincerà le primarie, penso che Renzi avrà un buon successo. Non sono in grado di dirti se vincerà il primo turno Bersani, penso che la cosa sia lì, insomma lui sia abbastanza vicino al 50%, ma francamente non lo so. Ti dirò la verità che non è forse nemmeno così importante a questo punto. L'importante è che si siano definite due visioni del centro-sinistra, del Partito Democratico, che non sono necessariamente antitetiche e che potrebbero trovare una composizione dopo, purché ci sia la volontà di questa contaminazione, no? Perché se passa l'idea che ha enunciato Rosi Bindi, che considera Renzi un figlio di Berlusconi, un figlio del berlusconismo, questo vuol dire che il Partito Democratico si chiuderebbe a riccio in se stesso e francamente questo sarebbe abbastanza inquietante. Se invece c'è la volontà di prendere quello che di buono ha detto Renzi, che non è un protettore dei finanzieri che lavorano alle isole Cayman, come è stato detto, ma è uno il quale sta cercando di portare qualche idea fresca all'interno del Partito Democratico del centro-sinistra. Bene, se c'è questa volontà di aprirsi, è tutto di guadagnato. A proposito però di tutto questo, c'è secondo me una questione importante. Il nostro giornale, Il Sole 24 Ore, ha pubblicato nei giorni scorsi un sondaggio, come sempre curato dal professor Dalimonte, che era interessante non tanto dal lato dei risultati delle primarie, secondo me, ma quanto dal risultato di come cambierebbero le cose a seconda che Renzi o Bersani fossero, insomma, a seconda di chi andasse a fare il candidato premier. E emerge che in realtà con Renzi il Partito Democratico potrebbe contare addirittura, se non erro, su un 10% in più. Questo Simone, perché Renzi è più capace di prendere voti al di fuori del Partito Democratico di quanto non sia Bersani. Bersani fa il pieno di quelli che sono i militanti, i simpatizzanti, insomma, dell'architettura del partito, mentre Renzi... No, Renzi naviga in mare aperto. Questo, Renzi, Stefano, ha difficoltà a prendere i voti del partito. Del partito. Questo, Stefano, perdonami, questo è abbastanza chiaro, mi sembra ormai. Il punto è però che cosa può succedere con un Bersani candidato premier a questo punto, dato quasi per assodato che le primarie le vinca lui, anche se, come sempre in questi casi, non è mai detta l'ultima parola. Diventa complicato, cioè c'è già chi vede una riedizione dell'unione di Prodi e del misero fallimento parlamentare. Hai colto il punto esatto. Se Bersani pensa che una volta fatte le primarie si continua come prima, no? Si continua col vecchio partito, con i vecchi rituali e ci siamo tolti di mezzo il problema Renzi, commetterebbe un grosso errore. Vinte le primarie bisogna cercare di prendere qualcosa del renzismo, qualcosa hanno già preso, perché il tema della rottamazione che diceva Renzi ha portato a far sì che alcuni importanti, notabili del PD abbiano annunciato che non si vogliono ricandidare. Questo significa che c'è stato un passo avanti e che qualcosa di Renzi è stato assimilato, però bisogna fare molto di più. Guai a rinchiudersi, in effetti questo è il punto. Sarà capace Bersani di assumere un po' quel profilo liberale che bene o male Renzi ha saputo interpretare? Questa è una domanda. E questa naturalmente è la domanda da farsi. Posto che naturalmente il tutto è condizionato dal fatto che non abbiamo la minima idea di, ancora una volta, e ce lo diciamo per l'ennesima settimana, di con che legge elettorale andremo a votare. Si è diffuso ieri, e ve lo segnalo perché è interessante anche ai fini di questa trasmissione, un hashtag che è una di queste chiavi di ricerca su Twitter, che si chiama Mangia Roberto. È stata coniata dai colleghi della redazione del quotidiano Europa, il riferimento è a Roberto Giachetti, che è un deputato del PD radicale originariamente, che da 82 giorni sta facendo lo sciopero della fame proprio per la legge elettorale. Le sue condizioni si sono aggravate ed è un elemento di testimonianza importante, ci sembra. Detto ciò, la condizione della legge elettorale è dirimente da questo lato, no? Siamo sempre fermi allo stesso punto. La cosa va avanti a piccoli passi ma senza alcun accordo, e rimane il fatto che senza un accordo che comprende il Partito Democratico e che sia, diciamo, ratificato con una certa convinzione, è difficile pensare che si possa fare la legge prima dello scioglimento. Questo per quanto riguarda la legge elettorale. Veniamo all'altro campo e il PD, come abbiamo detto, veniamo all'altro campo, mettiamola così, al PDL, dove la settimana è andata avanti tra estrema confusione, rapide schiarite, confusione di nuovo con le ultime dichiarazioni di Alfano, che dice, insomma, se ci sono degli indagati che corrono alle primarie, io non corro. Devo dirti la verità, io questa cosa proprio non l'ho capita. I berlusconiani l'hanno presa come una dichiarazione di guerra al vecchio mondo berlusconiani, che è paradossale, no? Che un ex presidente del Consiglio si sente chiamato in causa se il segretario del suo partito dice no agli indagati, però sta di fatto che lì la confusione è totale. Io ho l'impressione che Berlusconi stia cercando un'occasione, un pretesto forte per rompere con questo schieramento del suo partito, che va da Alfano a Frattini, insomma la Gelmini, c'è tutto un mondo che si sta, diciamo, riallocando, dandosi un profilo europeista e dicendo che Monti è il punto di riferimento. Quindi in qualche misura c'è già una scissione in atto nel partito di Berlusconi. È una scissione che potrebbe essere, diciamo, l'iniziativa essere presa dal medesimo ex presidente del Consiglio, padre fondatore di questo partito. La cosa sarebbe clamorosa, sarebbe anche un po' assurda secondo me, però è nel novero delle probabilità. Naturalmente su questa vicenda di Alfano e gli indagati, sequenza di battute su Twitter che nemmeno vi dico. Lia Celi dice: primarie PDL, Alfano, se si candidano gli indagati mi ritiro, o condannati o niente. Non male quella di Matteo Grandi, Alfano contro gli indagati, e dice: la riconoscenza non è mai stata il pezzo forte degli italiani. Noi però adesso parliamo di un altro argomento, e se vogliamo anche di elementi che riguardano tutto questo, ossia il post voto, ossia le parole di Napolitano, questo bisogno di intervenire su chi, per così dire, stava tirando per la giacchetta Monti, Stefano. Ma guarda, io sul Sole ho dato un'interpretazione che mi sembra abbastanza verosimile. Napolitano è preoccupato che ci sia un logoramento del personaggio Monti, perché sa che è importante in questo momento, perché incarna un patrimonio di credibilità, no? Che l'Italia non può disperdere. Allora, siccome Monti mi sembra quantomeno dubbioso, diciamo, può darsi che sia stato tentato, però è quantomeno dubbioso sulla opportunità di una sua discesa in campo diretta, che significa mettersi alla testa di un qualche schieramento, di un qualche partito vecchio o nuovo che si viene formando. Allora Napolitano ha detto qualche cosa che va nel senso di evitare l'usura di Monti, il che non significa naturalmente che Monti non possa, facendo quello che fa il presidente del governo tecnico, eccetera, non possa essere un punto di riferimento per tutti coloro che vorranno vedere in lui un personaggio a cui riferirsi per immaginare per lui un ruolo futuro. Non c'è dubbio che Monti oggi rappresenta una linea politica, piacere o meno, ma è una linea politica che ha riscontri nel Partito Popolare Europeo, che significa europeismo, significa serietà, rigore, severità, tante cose in cui dei partiti, uno, due, una coalizione di partiti possono riconoscersi in vista delle elezioni, ma che sia lui a mettersi alla testa, che costruire una forza politica, candidarsi come premier, andare in piazza, tribuna politica, mi sembrava francamente molto improbabile prima, e Napolitano qualche misura gli ha dato una mano a dire: guarda, non farti logorare inutilmente in una contesa politica che non fa per te. Grazie anche per questa settimana a grazie. Stefano Folli per il punto. Buona giornata, Stefano. Ciao. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo tra poco. Parleremo prima, come al solito, di numeri con Riccardo Puglisi, e questa volta ci occupiamo non di personaggi ma di altro, e poi ovviamente le primarie. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci in questa terza parte di Vota Antonio a parlare come sempre di numeri con Riccardo Puglisi, che ci accompagna sempre. Riccardo, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Allora, questa settimana, dato che il tema di settimana sono sicuramente le primarie del centrosinistra, e di numeri sulle primarie del centrosinistra ne abbiamo visti fin troppi, ne vedremo qualche altro più avanti, abbiamo deciso di concentrarci non sui politici, ma sulle politiche. E abbiamo deciso, dato che tra l'altro è stato tra i trending topic, ossia tra le tendenze principali di Twitter nel corso della settimana, di parlare di tasse e del redditest. Allora, Riccardo, che cosa emerge? Dacci innanzitutto, come sempre, un quadro generale. Sì, quindi ci siamo spostati da politics a policies. Io ho guardato il numero di volte in cui è stato menzionato in tweet la parola redditest, appunto, che è la novità della settimana, e poi, tanto per dare un'idea di un termine comparativo, ho anche guardato IMU e tasse come parole chiave, che sono andato a vedere nell'ultima settimana le ricerche di queste parole. Il termine che domina è effettivamente redditest, perché in 3 giorni ci sono sostanzialmente 2700 menzioni del termine, mentre invece per IMU sono 2000, è chiaramente più costante perché anche nel passato dei giorni, cioè, l'argomento veniva nominato, e ancora 2000 per tasse. Redditest, che lo ricordiamo ancora una volta per gli ascoltatori che non lo sapessero, è di fatto quel test che si può scaricare dal sito dell'Agenzia delle Entrate e che permette in sostanza di misurare le proprie spese in rapporto al reddito in vista del redditometro che dovrebbe scattare a gennaio. Che cosa esce da questi tweet? Immagino cattiverie a pacchi. Innanzitutto, quando c'è, questo mi sembra un dato di fatto tipico, cioè una costante, quando c'è qualcosa di nuovo, qualcosa che è notizia, in realtà gli utenti non dialogano di meno, quindi sono molti più dialoghi su IMU e tasse in percentuale, invece molto, molto meno dialogo su redditest. Quindi c'è l'idea di un'informazione che fluisce dalle fonti di informazioni sul tema tipico, e effettivamente quando si parla di redditest c'è una parte di parole che compaiono che sono relative al funzionamento, quindi al funzionamento della cosa, quindi compare la parola redditometro, compare la parola fisco, compare la parola fare, compare abbastanza in alto, quindi una delle prime parole, per esempio nel 5% dei tweet c'è la parola befera, quindi c'è questa personalizzazione dell'attività di riscossione associata a qualcosa di brutto o di solito non un po' le sue dichiarazioni, perché in realtà c'era stata appunto una conferenza stampa di Befera, di solito non è sempre associato, diciamo, a valutazioni positive, però diciamo c'è questa dimensione del descrivere quello che è successo, e comunque, anche se non mancano evidentemente delle espressioni spiritose, cioè dei motti spiritosi, per esempio ho fatto il reddito testa e mi è uscito passionale. Poi c'è un commento intelligente di Riccardo Luna che dice: chissà quanti evasori correranno a fare il reddit test del fisco, e come spera che un bugiardo chieda di fare la macchina della verità. Quindi diciamo, i commenti, diciamo, rispetto a questo nuova cosa, questo nuovo strumento, evidentemente si scatena l'umorismo e comunque della rete. Il famoso popolo della rete, che come è noto, lo ripetiamo sempre, non esiste. No. In realtà si conferma come sempre quello che rappresenta Twitter per molti aspetti, ossia un... insieme ad essere un social media, anche un news media, ossia insomma serve anche per diffondere le notizie. E per darci termini di raffronto, adesso andiamo su IMU e tasse. Che cosa esce fuori da là? Come dicevo, un primo elemento è quello per cui, come si dice, si dialoga di più. Diciamo, sono elementi già noti, nel senso le tasse sono abbastanza antiche come fenomeno umano, e l'IMU è almeno antico di un anno, quindi ci sono all'incirca un 20% di dialogo su questi temi. Spesso vengono messi dei link, perché si va a vedere, nel senso, l'argomento è grosso, quindi si porta il link a un altro, altre pagine web dove ci sono informazioni più rilevanti. In questo caso, ancora sulle tasse, c'è un ruolo giocato dalle trasmissioni, perché per esempio per tasse una delle prime parole che compare è servizio pubblico. Quindi servizio pubblico, tra parentesi, c'era stata la presenza di Briatore, quindi si era parlato dell'argomento della tassazione, quindi compare la parola Briatore. Un'altra, compare Monti, perché c'è questa tendenza che direi tipica a personificare le policy, quindi le policy, compare Monti abbastanza in alto, paga, basta, compaiono queste parole chiaramente di pagano con due punti esclamativi, massacrato, non ci si spreca, diciamo, nell'evidenziare un certo qual fatica. Ecco, questo diciamo. Sulle tasse. Sull'IMU invece compare anche la Chiesa, mi sembra di capire. Assolutamente, sull'IMU compare la Chiesa, compaiono le trasmissioni, compare Not in My Name, che è un'espressione utilizzata da Beppe Grillo, e compare Beppe Grillo, compare ancora Monti e compare la Chiesa, esattamente. Compare la Chiesa come terza parola, quindi casa, pagare, Chiesa. Poi c'è una parola che è interessante, compare sia con tasse che con IMU, è più. Quindi questa idea di più, tipo... Più tasse e più IMU, evidentemente. Esattamente. E tra le espressioni utilizzate sull'IMU c'è qualcosa, la Chiesa che paga l'IMU anche sulla prima Chiesa, quindi un po' di battute. Non so se nella stalla di Gesù bambino c'erano il bue e l'asinello, di sicuro era esente IMU. Ecco, diciamo, questo tema, cioè questione del pagamento, questo tema della simmetria del pagamento per le esenzioni, che non si sa se vi saranno o meno rispetto al pagamento da parte della Chiesa su attività commerciali, non di culto, questo tema della simmetria tra chi paga e non paga. Sembra dominare al momento nel dialogo sull'IMU. Grazie anche per questa settimana a Riccardo Puglisi. Riccardo, buona giornata. Grazie. Lo trovate anche su Twitter, naturalmente, Rick Puglisi. Cercate su internet, insomma, trovate un po' tutto di quel che lo riguarda. Noi adesso veniamo al cuore politico di questa settimana, l'appuntamento principale, ossia le primarie del centrosinistra. E dunque, eccoci a parlare di primarie. Lo faremo oggi con due professori, ma cercando di essere il meno universitari possibile, insomma, ce lo consentano. Saluto Luciano Fasano, che insegna scienza politica all'Università di Milano ed è coordinatore si chiama Candidate and Leaders Selection, ed è, possiamo definirlo, l'Osservatorio Nazionale sulle Primarie. Buongiorno Luciano. Buongiorno agli ascoltatori. E buongiorno a Luigi Curini, che già avete sentito a questi microfoni, che è sempre l'Università di Milano e si occupa del progetto Voices from the Blogs. La faccio molto semplice: cerca di analizzare il sentimento della rete rispetto ai candidati. Luigi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, quello che vogliamo è il sentimento della rete e quindi una previsione sulle primarie. Poi la settimana prossima ci sentiamo e vediamo com'è andata. Quindi è una grande sfida. Sì, assolutamente. Da questo punto di vista. Beh, vediamo se il famoso popolo della rete, che in realtà non esiste e continuiamo a dirlo, ci azzecca oppure no. Beh, innanzitutto, come hai giustamente detto, quello che noi analizziamo è il sentimento della rete, che non necessariamente produrrà una previsione sui risultati elettorali di domenica. Comunque è quello che noi osserviamo. Però Luigi, c'è da dire che voi avete un precedente buono, perché avete fatto queste stesse analisi sugli Stati Uniti e nei cosiddetti swing states, ossia quelli incerti, ci avevate azzeccato più dei sondaggi, quindi noi ci fidiamo abbastanza. Comunque, vai. Allora, no, su quello in effetti era... è stato un ottimo successo per noi, quindi noi speriamo di ripeterci anche in questo caso. Noi quello che stiamo osservando sono due fenomeni in questi ultimi giorni. Noi lo stiamo analizzando oramai negli ultimi quattro giorni, ogni giorno facciamo uno scarico e analizziamo più o meno 50.000 tweet. E quello che noi stiamo osservando sono due fenomeni interessanti. Da un lato una polarizzazione del sentimento della rete verso i due principali, o quelli che sembrano i due principali candidati, cioè Bersani da una parte e Renzi dall'altra, a scapito dei due candidati tra virgolette più deboli, cioè la Puppato e Tabacci, che avevano invece avuto una certa notorietà e copertura della rete a seguito del dibattito televisivo, mentre Vendola rimane sostanzialmente stabile. Il secondo punto che noi osserviamo è che questa polarizzazione, per la prima volta, e questo lo registriamo da due giorni, questa polarizzazione porta Bersani sopra il muro del 40%. Lui era, sulla base delle nostre osservazioni, sulla base appunto del sentimento della rete, Bersani per un mese e mezzo era sempre stato, oscillava intorno al 40%, da due giorni fa era al 44,1% per noi, e oggi con l'analisi dei tweet di ieri questa percentuale è salita al 46,5%, mentre Renzi, che è al secondo posto, rimane fermo intorno al 34%, Vendola al 17% e Tabacci. Quindi teoricamente avremo un Bersani nemmeno troppo lontano dalla vittoria al primo turno, tutto sommato, non lontanissimo quantomeno, insomma. Sì, questo è, ripeto, abbastanza sorprendente, perché per un lungo periodo la sua percentuale rimaneva stabile intorno al 40%. È successo sta succedendo forse qualche cosa in questi ultimi giorni, tale per cui c'è questa tendenza a, perlomeno quello che noi analizziamo nella rete, ad alzare questa percentuale di Bersani. E per la prima volta, almeno sulla base delle nostre analisi, per la prima volta sembra plausibile la possibilità che Bersani possa arrivare molto vicino alla soglia del 50%, possa effettivamente, perlomeno, ripeto, sulla base delle nostre osservazioni, vincere direttamente al primo turno. Luciano Fasano, ci dà una lettura non strettamente da osservatore della rete, ma insomma più politica della cosa? Beh, prima di tutto vorrei aggiungere una cosa a quanto stesse dicendo prima Luigi, che è il fatto che anche noi abbiamo rilevato nell'ultima settimana un incremento delle attività attraverso mailing list del comitato Bersani. Cioè, siccome monitoriamo un po' anche l'andamento di quelle che sono le liste di riferimento dei candidati, abbiamo verificato che c'è stato un consistente lavoro di messaggi, di brevi spot inviati alle mailing list, realizzato molto su singole categorie, dai professionisti al mondo del lavoro, al mondo della cultura, alle donne. Un embrione di micro-targeting simile a quello che abbiamo visto negli Stati Uniti? Esattamente, e cioè, adesso noi l'abbiamo analizzato con una prospettiva, un taglio diverso rispetto a Voice from the Blog, però possiamo confermare il fatto che, a fronte di quello che diceva lui sul lato della dinamica dei social network, vi è comunque una campagna di mailing che nell'ultima settimana si è intensificata in maniera insistente da parte di Bersani, come a voler cercare di sfondare il muro del 50% e portare l'assalto definitivo all'altro candidato, al principale sfidante. In questo sono d'accordo con Luigi, che è senz'altro e senza dubbio Matteo Renzi, cercando di risolvere la partita già al primo turno. Ci fermiamo un attimo perché abbiamo la pausa per la viabilità, ci ritroviamo subito dopo e riprendiamo il discorso, perché abbiamo sentito come stanno girando le cose dal lato delle mailing list. La mettiamo insieme a questa questione della rete. Voglio capire anche da Luigi Curini se ci sono motivazioni interne, per esempio ai social network o ai blog, che hanno come dire, scatenato questa polarizzazione e questa virata verso, più decisa verso Bersani. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Eravamo in sospeso perché ho una domanda per Luigi Curini. Ci è stato detto a Luciano Fasano che c'è stato un forte incremento di attività da parte delle mailing list pro Bersani e voglio capire se anche sui social network e sui blog avete avuto percezione che ci sia stato un rafforzamento di questo fronte, insomma una propaganda più intensa, ecco. Beh, quello che noi possiamo vedere attraverso il nostro metodo, che in parte è basato su un'analisi manuale di un piccolo campione di tweet per poi affidarsi a un algoritmo che stima sull'intero universo scaricato i risultati dell'analisi manuale, quello che possiamo dire è che appare in questi ultimi giorni una crescita di sostegno esplicito per Bersani che sembra, questo posso dirlo come mia impressione, sembra provenire da persone che sono molto legate al Partito Democratico. In qualche modo è come se in questi ultimi giorni si fosse attivata ancora di più la macchina organizzativa del PD e in particolare del Comitato Bersani per in qualche modo attivare lo zoccolo duro, tra virgolette, degli elettori del Partito Democratico. Questo è forse l'aspetto più evidente che mi sembra emergere, mentre al contrario nel caso dei tweet pro Renzi c'è una sorta di percezione che effettivamente provengono anche da persone che non necessariamente sono legate al Partito Democratico o in modo molto strutturato all'area del centro-sinistra. Cosa che abbiamo visto plasticamente nel sondaggio pubblicato da Sole 24 Ore un paio di giorni fa, sondaggio realizzato dal professor Dalimonte col suo centro studi, nel quale indicava che un eventuale PD con Renzi candidato premier potrebbe arrivare sopra la soglia del 40%, evidentemente più in grado di raccogliere qualcosa all'esterno, evidentemente anche in quest'ambito all'interno delle primarie. Complessivamente Luciano Fasano ha avuto l'occhio un po' su tutti gli aspetti, però naturalmente in questa sede sulla rete che vogliamo raccogliere, a me sembra che un grande ruolo la rete alla fin fine in queste primarie non ce l'abbia avuto, è comunque difficilmente misurabile, no? Beh, sicuramente difficilmente misurabile, dopodiché in quanto stavamo dicendo, cioè nel fatto che da un lato c'è un intensificarsi dell'azione su diversi livelli attraverso la rete di Bersani e dall'altro lato però resti il fatto che sul piano dei follower e quindi sul piano della community resti molto forte Matteo Renzi, ci dà l'idea di quelle che sono ancora oggi forse le proporzioni della capacità di influenzare il risultato da parte della rete, nel senso che la rete è più forte, come dire, dal punto di vista dei seguaci della community, della qualità dei community members da parte di Renzi, ma viceversa nel momento in cui viene utilizzata magari da parte di una mobilitazione che più organizzata all'interno del comitato Bersani e meno lasciata alla spontaneità, riesce ad attestare Bersani anche rispetto all'orientamento che si definisce in rete, che permette a Curini e ai suoi colleghi di dare una stima possibile dei risultati, un vantaggio di Bersani che rimane consistente. Quindi è uno strumento importante la cui influenza però non sembra non solo potersi definire a pieno, ma anche non sembra essere al momento del tutto decisiva. Veniamo anche a come è stata questa campagna per le primarie. Io vi invito tra l'altro ad andare a visitare il sito di Candidates and Leader Selection, poi vi metteremo il link anche sul nostro sito, perché se vi volete preparare bene l'appuntamento di domani, andate là perché c'è veramente un sacco di materiale. E un tema che voglio toccare è quello dei siti dei candidati, perché dall'analisi fatta da Luigi Gariglio dell'Università di Torino, che voi avete pubblicato, emerge un dato piuttosto interessante, ossia che in realtà i candidati non hanno parlato di un paio di temi molto classici della sinistra, nessuno di loro. Sì, in effetti quello almeno, che è accaduto almeno, è... Pardon, che... ragionando per immagini naturalmente sì, sui certo, loro siti. Ragionando per immagini e cercando di vedere quali fosse la semantica di queste immagini, i messaggi che attraverso esse si cercava di definire, di inviare agli elettori delle primarie, possiamo dire che i due grandi assenti, come dice Gariglio nel suo pezzo, sono stati donne e immigrazione soprattutto. In principal modo l'immigrazione, che di cui non appaiono immagini, diciamo, nei principali siti, e le donne che addirittura nel caso della candidata Puppato, che ne ha fatto un tema importante, un issue importante per costruirsi una nicchia sotto il profilo del voto di genere, che peraltro penso gli darà anche dei buoni risultati, in realtà non trovava rispecchiamento nel sito, dove le immagini delle donne al pari degli altri siti, degli altri candidati, erano abbastanza poche, erano molto parche. Il punto interessante poi invece riguarda il tema del lavoro, che è un tema, vuoi per la crisi economica, vuoi anche per un po' di tensioni che si stanno manifestando nella società italiana, un tema centrale, e l'unico candidato che ha deciso di percorrerlo anche attraverso la semantica delle immagini nel suo sito è Pierluigi Bersani. Questo forse anche, diciamo, è testimonia una sua certa coerenza nel cercare di tenere insieme la sua immagine on the web rispetto alla sua immagine politica, come in questi mesi anche ha cercato di fare un tema centrale per il PD. È curioso che non l'abbia fatto Vendola, in realtà. È curioso che non l'abbia fatto Vendola, però Vendola si presenta come un candidato che ha, come dire, dei crinali un po' particolari. Da questo punto di vista un pochino più radical chic. Ad esempio lo si vede molto bene in quello che è il sistema degli endorsement, cioè delle persone che decidono di spendersi pubblicamente per sostenere il candidato. E le persone che sostengono pubblicamente Vendola sono molto frequenti, diciamo molto presenti, ad esempio nel mondo dello spettacolo e della cultura. Quindi l'immagine di Vendola è quella di un candidato di sinistra che tiene ad alcuni temi distintivi della di sinistra, i diritti civili ad esempio, e l'immagine della cultura e, diciamo, del mondo dell'arte, dello spettacolo eccetera, più che il mondo del lavoro, che invece sembra essere un tema caratterizzante proprio in senso tradizionale della sinistra, la campagna di Bersani. Ultima battuta per Luigi Curini, ma non è una battuta, io voglio due percentuali, dimmi quanto fa Bersani e dimmi quanto fa Renzi secondo i social, secondo la rete, e poi verifichiamo tra domenica e sera e lunedì a seconda delle file. Guarda, noi come detto analizzeremo, abbiamo ancora due giorni di tempo per cercare di tirare al meglio, perché analizzeremo cosa c'è la rete sia oggi che domani. Quello che mi sembra è che sulla base del trend che noi stiamo osservando è che Bersani possa arrivare anche molto vicino al 50%. Okay, non so se sopra o sotto, ma ragionevolmente vicino al 50%. Ragionevolmente vicino al 50%. Ci fermiamo così. Io ringrazio Luigi Curini e Luciano Fasano, entrambi dell'Università di Milano, dell'Università Statale di Milano. Vi ricordo che poi tutti i link li trovate sul nostro sito, tutti i link, insomma, che li riguardano. Vi ricordo che ci potete seguire su Facebook, è Vota Antonio R24, potete scriverci votaantonio@radio24.it. Su Twitter Vota Antonio R24, anche là, oppure potete seguire me, Simone Spezia. Un grazie a Filippo Aureggi in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, come sempre. Buona giornata. Italiani!